è stato tanto tempo fa, però ancora mi ricordo sta canzone che cuscia fa. Te tanto bella le ali che ga, pa che ti dormi dopo a te giornata. La su in sciume erbui e sarti e senina in po, i parte i pescoi care guiderei per l'indomani. Se ti ga fortuna deveni alea, ti ta trovi e drentu a una bella foa. O duande stoi ai te caruggi a stoia che senza show, ma te dice finalmente che allora di te arrivò. Chi che su mi muggio dice che bruce sui e mi porta le na sfida tra gianchi e turchi, un fraterni te se tema e se rispetta ma sciappa in due ansi te. Se ti ga fortuna deve ni alea, ti ta trovi e drentu a una bella foa. O duande stoi ai tuoi caruggi si a porta dure l'io monumento da sita denti carrugetti orbi perché su chi nughe ne ti fa un passo du gambin cu vendeva biciclette ten già passeggiata ma sempre bella de giorno. Signora Rosara e Mundi, muoio deserto Garibaldi. E se ho scritto in senese, me capie mi son segu. Perché un nostro lendiale tu colonisce tanta gente, sia che ti stia levante o che ti sta in tu punente. Son ricordi co in tu che li ho descritti come sento, e anche se mi son desena, a m'entra proprio chi drento. Questa gente è sempre allegra, che t'accoglie con rispetto, pode star in mezzo agli amici, quello segge tutto dialetto.